ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City, un materiale impossibile da tagliare. È stato descritto su Scientific Report da un gruppo di ricercatori del Fraunhofer Institute e di tre diverse università inglesi, un materiale ispirato al comportamento, ispirato alle caratteristiche di alcuni materiali naturali, come per esempio alcuni particolari gusci di conchiglia e ai pompelmi. E allora, per cercare di capire qualcosa di più di questo materiale, andiamo dalla nostra esperta di materiali bioispirati, Irene Bonadies, dell'Istituto per i Polimeri Compositi e Biomateriali del CNR di Pozzuoli. Buonasera Irene, bentornata. Buonasera. Allora Irene, intanto ti chiedo di descriverci un po' questo materiale, come è fatto e di che cosa è fatto. Allora, questo è un materiale che combina sia un materiale metallico che dei materiali ceramici. In particolare è costituito da una schiuma metallica di alluminio al cui interno sono presenti delle sfere ceramiche, sfere anche di dimensione piuttosto grande, quindi non parliamo di un materiale nanodimensionato. E questo materiale, appunto, combinando una struttura porosa e la durezza di un materiale ceramico, ha mostrato delle proprietà interessanti da un punto di vista meccanico. Ecco, sono state fatte ovviamente delle prove di taglio anche abbastanza sorprendenti. Hanno provato a tagliarlo in tutti i modi possibili e immaginabili. Ecco, che prove hanno fatto e come si spiega quindi questa grande resistenza al taglio? Allora sì, hanno provato a tagliarlo con diverse tecniche, una lama rotante, un trapano, un getto d'acqua, e in tutti i casi il materiale, che in questo, diciamo, può avere la forma di un pannello, di un cilindro, ha mostrato un'elevata resistenza, quindi è stato scalfito ma non si è riuscito a penetrarlo. E questa eccezionale resistenza è legata proprio alla presenza di queste sfere ceramiche che hanno una elevata durezza e, essendo anche molto grandi, entrano in, si può dire, collisione con l'oggetto tagliente, quindi la lamina oppure la punta del trapano, creando una serie di onde, quindi iniziano a vibrare per renderla, sì, diciamo, perfetto, sì, per renderla in una maniera più figurativa. E queste vibrazioni sono tante, che causano proprio il sobbalzo, così anche viene descritto nell'articolo, dello strumento tagliente. Sarà capitato a tutti a volte di usare il trapano e non riuscire a mantenerlo perché, perfetto, incontra di qualcosa molto duro. E viene deviata, per esempio, la punta, no? Perfetto, è quello che accade con questo materiale. Quindi il fatto che lo strumento sobbalzi e l'operatore non riesca a mantenerlo fermo, combinata con questa elevata resistenza delle sfere ceramiche che vengono intaccate ma non vengono mai proprio tagliate, rendono di fatto questo materiale un materiale non tagliabile, con diverse tecniche, appunto con un trapano, con un getto d'acqua o con una lama rotante. Se non sbaglio, rispetto al getto d'acqua, che naturalmente invece è più facile da tenere in posizione, queste sfere, se ho ben capito, allargano il getto, impedendogli, sì, di rimanere concentrato e quindi di caricare la propria forza di taglio in modo preciso. Sì, perfettamente, con il getto d'acqua la sfera proprio ostacola, si può dire, il fascio, getto dell'acqua, e quindi andandolo ad allargare lo rende inefficace. Ecco, parliamo invece del lato bio-inspiration, se così vogliamo chiamarlo. Vorrei capire che cosa hanno copiato questi ricercatori tedeschi e inglesi dai pompelmi e dalle conchiglie. Che già, insomma, è un'associazione abbastanza curiosa, no? Il limone sulle vongole, sì, ci sta, ma pompelmo e conchiglia non l'avevo mai sentito. Sì, allora, hanno preso dal frutto la struttura cellulare che, diciamo, negli agrumi, tutti vediamo quella parte bianca che è al di sotto della buccia, sì, ed è intorno al frutto. Bene, quella parte bianca, se la guardiamo al microscopio, è una schiuma, quindi è porosa, ed è quella parte parte che protegge e riesce a proteggere il frutto durante ad esempio una caduta, quindi evita che il frutto magari venga frantumato, proprio perché agisce da barriera protettiva. In particolare dalla madreperla, loro hanno preso ispirazione, hanno visto invece la resistenza dei cristalli di aragonite, che appunto è il materiale ceramico di cui è costituita la madreperla, e questi cristalli disposti appunto come delle lamine, come delle lamelle legate tra di loro da un altro materiale più morbido, conferiscono un'elevata durezza proprio alla madreperla, che infatti ne conosciamo, è molto dura, è un materiale molto duro. E si vede persino a occhio che è fatta da tanti strati, che d'altra parte vengono poi deposti anche, immagino, dal mollusco uno alla volta. Sì. E proprio combinando quindi l'eccellente durezza del materiale ceramico che è presente ad esempio nella madreperla con la struttura cellulare porosa di una schiuma naturale come quella che è contenuta nella buccia degli agrumi, hanno realizzato questo materiale multiscala, proprio perché ha una struttura gerarchica. Quali possono essere le applicazioni di un materiale di questo genere, e soprattutto, ecco, se è un materiale che al di là di dare luogo a un'interessante pubblicazione scientifica, è qualcosa che tu immagini possa essere effettivamente applicato? Allora, loro già consigliano delle applicazioni, ed effettivamente questo materiale può trovare diverse applicazioni, ad esempio porte o barriere di sicurezza. I ricercatori suggeriscono anche per realizzare le suole delle scarpe o delle protezioni per ad esempio operai specializzati che lavorano in determinati ambienti soggetti a maggiori rischi, quindi che lavorano con strumenti di taglio. Ovviamente deve essere ottimizzato il materiale e personalizzato in base all'applicazione, perché stiamo parlando di un materiale metallico principalmente, massiccio, quindi non un foglio massiccio, impossibile da tagliare, ecco. Quindi deve essere personalizzato giocando sia sulle dimensioni delle sfere, giocando sulla porosità della schiuma metallica, così come sullo spessore della lamina realizzata. Va bene, allora, grazie Irene Bonadies come al solito. Grazie a voi e buona serata. Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, appuntamento domani. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.